glicemia è 95. Beh, 95 non è alto allora, perché il massimo è 120, quindi non è alto. Probabilmente io l'avevo mangiato roba dolce. Calma. Allora qua poi c'è scritto a fianco, c'è 60-110 mg trattino di quella roba lì. Quelli sono i valori massimi e quelli minimi, tutti devi basare, deve essere in mezzo tra l'uno e l'altro, non devi superare il valore massimo. Sodio, la US 148. Massimo quanto è del sodio, perché non deve come il valore? Allora, 136-150. E si è limitato con il sodio? Praticamente deve essere a 150, se ce l'ha a 140 possiamo andare a livello limite. Invece il calcio 8.8. Il massimo quanto è? 11,0. Vabbè, quello va bene. Però se ti manca il calcio te lo do io. Bastardo. Saprà dire che non devi fare cose importanti, perché una cosa è la dottore si riconosce, una cosa è fare un ordine della mia vita. Devi bere latte. E io me ne parlo, oh Giuseppe, cosa decidi allora? Vedi tu, già, vedi tu, se vuoi scendere il tuo portone, mi vedo e sto prendo. Sì, ci accendiamo, va. Fra una mezz'oretta, stiamo un pochettino in radio, poi al limite scendiamo l'acqua, più al fresco che al caldo. E capa. Ieri c'ero sì dalle 2:05. Ma di notte? E come mai? E perché sono sceso, io ti avrei voluto telefonare perché siamo andati a vedere il concerto di Anna Oxa, a mezzanotte meno un quarto ha finito e poi la mia moglie col bambino ci deve accompagnarsi a casa perché stava addormentando. Io me ne sono sceso già a portatore, lo sai che c'era una camminata lì, no? Sono andato a trovare quelli del Ciso, eccetera, eccetera. Perché me l'hanno chiesto, me l'ha scritto ci manchi, questo e quell'altro, allora mi ha fatto un po' di piacere, diciamo. Loro sentono la mancanza, qui sono andato a trovarmi e in più ho fatto, diciamo, tipo servizio, diciamo, alle persone che stavano scendendo, con le quattro frecce, eccetera, eccetera, per quello che volevo fare con tutti i cibi e poi, vabbè, il prossimo anno magari si decide, si fa con i giubbotti e con tutti loro. Che fuori, che la voglia sta votando. E capa, vabbè, da, sono le 7:10, non si chiama da qui. E vabbè, va, mi preparo adesso. Ok, saluto tutti cordialmente, vado a prepararmi alla guarda. Magari ci facciamo dire che poi ti dovremo, la Giuseppe. Ciao ciao ciao. Ciao ciao, e addio, tanto adesso mi lavo, mi fa una piccola linguatina e mi preparo anch'io. Ciao anche gli altri amici che sono all'ascolto, mi sembra che avessi sentito anche Alice, ciao lì. E io, ciao Gianni, buonasera, ben sentito, saluto a me. Ciao ciao. Gama gama, io ando bene, io ando bene. Allora, stiamo che vai a pascolare, Giuseppe. Come farò così, ma ci facciamo un giro con l'istituto per registrarmi e non è, a me non me ne scopo da quella casa, capisco, tutto il giorno, quasi tutto il giorno richiuso, vabbè, ho rientrato a mezzogiorno a casa, hai capito? Ho capito. No, domani mattina vado a mancare alle 8:30 io, quindi vado a fare l'intonacatura domani mattina, tutto il giorno. Io domani mattina devo portare l'analisi a Otto Reggio, vediamo cosa mi dice. cattolici, eccetera, eccetera, magari lo stress anche in cristiano. Capito? Ma non c'è lei a me, quello che mi fregava, Antonella. Mi fregava la roba gazzata, capito? La roba gazzata, la Coca-Cola, tutto quanto, la roba che non facevo, hai capito? Anche stasera alle uscito alle le 3:30, 4:15, mi sono fatto 2 chilometri a piedi, capito, camminando, e poi sono venuto qua, mi sono fatto la doccia e mi sono messo un po' a letto. Ma cioè, va bene, sì, 2 chilometri a piedi, sono arrivato più di 2 io, partendo da qua, scendo in campagna, poi salendo dove in su, e ora adesso non lo faccio più, non faccio più nessuna guerra, già mi sono peccato il piede ieri. Anche noi ieri, l'altro giorno, il pollice proprio in piedi, mi ha sceso un pezzo di gasbetto, mi aveva pestato il pollice, non ti dico il dolore, cioè, ho preso il piede e ci avevo messo dentro un secchio dell'acqua, più della mezz'ora, tanto sempre mezz'ora è diventato. No, vabbè dai, Antone, ci sentiamo dai, Marinite, ci sentiamo questa settimana per quella questione lì e non ti porto più i soldi e mai mi prendo quella cosa lì, capito? Vabbè, già a casa, non c'è problema, mio. Non c'è oggi la verità, perché non stavo più usando il paracchino. Ho attaccato anche di liare, per farlo scaldare un po', visto che sta funzionando bene, già pompa. Auguria. Vabbè, ok, dai, ci sentiamo più tardi, ciao, ciao. Sì, ciao, più tardi, ciao. Avanti, chi è? Attenzione Sardegna, su Prodi, la provincia di Messina, Costa Tirrenica, qui Carmelo, Vatta. Buonasera, Carmelo, saluto di buon ascoltato, Sassari da questa parte. Continuo Vatta, dalla città di Capo Orlando, Vento Sardegna, da Messina, Costa Tirrenica, Costa Tirrenica, Rambio. Sta arrivando bene, Santiago 7 qua, Radio 5, a me come li ascolti lì in Sicilia? Positivo, positivo, qui arrivi in Santiago, che posso farla 8, ma tutto a poco di ritorno al colore, vai, 8 bellissima, la vera sera la prima bene, ti ringrazio, vai, faccio un attimo di bianco, ci sentiamo dopo al limite, stavi bene, saluto lì. Ok, dai, ciao, ci sentiamo alle prossime.